Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una trasmissione in nostra compagnia. Con me c'è il nostro amico e come posso dire, guardia spalle Antonio Ceccato. Grazie per la definizione, buonasera a tutti e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Benissimo, allora Antonio, iniziamo con la prima canzone. Benissimo, allora la prima canzone, Io, tu e le rose di Orietta Berti. Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu per me c'è troppa gente, gente che vuol sapere perché viviamo così. Quando siamo io, tu e le rose, io, tu e l'amore, anche se cadesse il mondo, quello stesso giorno noi saremo là. Eccoci in studio col nostro ospite che è il professor Antonio Soligon. Buonasera professore. Buonasera. E ben trovato. Buonasera e ben trovato ancora fra noi. Ben ritrovato. Ecco, allora noi le diamo subito la parola. La chiacchierata che mi piacerebbe proporre, che propongo questa sera, è su Venezia e il cibo. Serenissime tavole, potremmo intitolare questa nostra chiacchierata, su come si mangiava in Laguna. È una storia lunga fatta di tanti secoli. Allora, ci vuole però una premessa che riguarda non la Laguna, ma riguarda tutta l'Europa. Chi mangiava e chi digiunava? In altre parole, chi erano i siori e chi erano i poeti? I siori erano una assoluta minoranza, il 5, il 6% della popolazione. anche dopo il grande sviluppo demografico, il grande sviluppo agricolo e la rinascita delle città dopo il famoso anno 1000. Chi erano i signori? I nobili, gli aristocratici, i proprietari di terre. Cosa mangiavano essenzialmente? Carne. E da questo il loro grande problema della gotta. Mangiavano carne, ma attenzione, la carne in genere di cui si nutrivano non era la carne dei grossi animali, quelli erano le macchine agricole del tempo, servivano per i lavori nei campi. La carne dei nobili era quella che arrivava dalle foreste che occupavano gran parte ancora dell'Europa, cioè dalla selvaggina. Gli altri signori erano gli ordini monastici, i benedettini con tutte le loro derivazioni, anche questi grandi proprietari di terre. I benedettini mangiavano, a parte i periodi di digiuno, si nutrivano di carne, di pesce, di pane, di verdure. Poi dopo il 1000 si aggiunge un'altra classe sociale con la rinascita dei mercati, la rinascita della città. E questa classe è la classe dei borghesi, anche questi i polmagnar tutti i santi giorni e hanno risorse di carne e di tutto il resto. E sono, ripeto, il 5-6% in tutto della popolazione. Un'infima minoranza, quindi. La popolazione era fatto di contadini, liberi, semiliberi, servi della gleba, ricordiamoci, che servus in latino vuol dire schiavo, schiavi della terra che venivano comprati e venduti insieme con la terra. Quindi stiamo parlando del 95-93% della popolazione, gli operai nelle città erano una minoranza. Questi contadini erano bestie da lavoro chiaramente, perché lavoravano nei campi continuamente per i loro padroni. Ed erano i poretti. Cosa mangiavano? Poca carne, due volte all'anno, a Pasqua, a Natale in genere, forse. E anche il pane per questi contadini era un'eccezione, perché il pane era un lusso da signore. Qual era la regola? Che mangiavano papponi, una specie di polentine, che erano fatte di acqua, di miglio e di avena. Non sto in parlare del mais, perché quello, ne parleremo fra poco, arriverà con la scoperta dell'America. Sì. Con i nostri discorsi siamo secoli prima della scoperta per ora dell'America. Allora, cosa veniva invece nelle lagune? Le lagune sono un ambiente particolare. Sappiamo che sono state, lo abbiamo detto in altre trasmissioni, in altre mie chiacchierate, il rifugio dei nostri antenati, che terrorizzati dai barbari, dai longobardi in particolare, in gran numero si erano rifugiati in laguna, dove la vita era durissima, ma almeno la pelle era salva. Che risorse c'erano in laguna? Beh, ci viene spontaneo pensare alla pesca. Ma guardate che il pesce non era considerato una grande risorsa alimentare. Comunque la laguna era ed è ricchissima di risorse ittiche. E qua lasciatemi dirle in veneziano: è il sardon, la trioleta de semina, il barbon, il sardone è l'acciuga, la trioleta o barbon è la triglia, che sono pesci migratori ma che sono presenti in laguna. E poi il ganzariol, il cagnoletto, il soaso, non so se conoscete alcune di queste, il significato di questi termini. Sì. Il ganzariol è lo sgombro, il cagnoletto è il palombo, il soaso è il rombo, e poi cefali, branzini, orate, gamberi, calamari, merluzzi, sardelle, basta, altrimenti riempiamo il nostro incontro di elenchi di pesce. Tutta roba buona. C'è ci stuzzica l'appetito magari per una cena o per un pranzo. Però attenzione, questi nostri antenati fuggitivi in laguna hanno inventato, tra virgolette, la pescicoltura e sono stati allevatori dei famosi mitili, cioè i peoci, le capelonghe, le vongole, quelle che adesso noi chiamiamo le vongole verace, e soprattutto le moeche. Eh sì, perché le moeche e i moecanti erano quelli che sapevano catturare il granchio nel momento giusto, poi lo tenevano nei vieri, cioè in queste gabbiette, e sapevano individuare il momento giusto in cui il granchio, all'inizio della primavera, all'inizio dell'autunno, in cui il granchio mutava l'esoscheletro, la corazza esterna, e diventava la morbida, tenerissima e succulenta moica, quella che trovate in mercati di Rialto, ma a buon prezzo, ho visto ultimamente che era a 40 euro soltanto. E che poi sa che è quello che costa me. Costa... Sì, ma arriva sotto Pasqua, arriva a 80 euro. Prezzi da gioielliere. Al ristorante te la servono con la polenta, e cosa succede di solito? Che ti mettono sul piatto due moeche di numero e parecchia polenta, perché devi pure riempire lo stomaco. Col il conto è salatissimo, per cui scopri che hai pagato in realtà quella polenta un occhio della testa. Prezzo d'oro. Ripeto, le moeche sono due, ma sono talmente buone. Ed è proprio una cosa veneta e veneziana. Erano tanti gli allevamenti, no? Con le grisiò in laguna per recintare questi allevamenti, tanto che ci sono, per esempio nel 1501, i savi alle acque, i ministri alle acque, devono mettere con precisione privilegi e proibizioni e proibiscono che ci siano queste grisiole di recinzione, perché stavano alterando gli equilibri della circolazione delle acque in laguna. I pescatori però, attenzione, non erano ricchi, erano poveri anche loro, come contadini, e spesso integravano il loro reddito coltivando le terre delle isole della laguna. I proprietari invece delle valli, no, in scarsea quelli ne avevano. Come sempre. La seconda risorsa anche qua era la caccia agli uccelli. La laguna ha una fauna ricchissima, gli uccelli di passo, ma la caccia, un po' come avveniva nelle campagne, no? Era roba da sfiori, per esempio la caccia allo svasso minore o agli altri uccelli. Però attenzione, per i nostri antenati che erano fuggiti via terrorizzati dai barbari, in laguna c'era una risorsa, una terza risorsa, quindi, che era straordinaria, ne abbiamo già parlato, ed era il sale. Il sale che ricavavano dalle saline e che usavano non solo per insaporire i cibi, ma anche per conservare i cibi. Non erano i frigoriferi, gli abbattitori, i congelatori. Uno dei pochi sistemi per conservare i cibi era proprio il sale. Il sale era preziosissimo. C'era un problema grossissimo in laguna, che non c'è acqua da bere, perché quante volte l'abbiamo detto, Venezia è la città dell'acqua, sì, ma dell'acqua salata, mica si può bere. Se siete caduti in mare e vi è capitato di bere qualche sorsata di acqua marina, non è il massimo. No, decisamente. E quindi sapete che Venezia è la città dei pozzi, perché i veneziani hanno inventato questi pozzi, che sono dei capolavori spesso anche di arte, ma soprattutto di ingegneria, non sono altro che delle cisterne per raccogliere, filtrare e conservare quella che è l'unica acqua potabile di Venezia, che è quella che viene dal cielo, e cioè la pioggia. La pioggia, sì, sì. È un'altra risorsa, poi erano le acque dei fiumi che sfociavano in laguna, la Brenta soprattutto, che in un punto ha acque limpide, e quando i pozzi si svuotavano, pensate per esempio se andava via un inverno come quello che noi abbiamo alle spalle. Ai, ai. L'inverno durante il quale non è caduta una goccia d'acqua. I pozzi si svuotavano. Allora cosa facevano gli acquaroli? Con i burci, le barche cisterna, andavano proprio nella Brenta, io non dico il Brenta, dico la Brenta alla vecchia maniera, e attingevano l'acqua, non in tutti i punti, attenzione, perché nel 1318, per legge, Venezia aveva stabilito che potevano attingere solo in un certo punto del corso della Brenta, perché lì l'acqua era limpida. E in questo modo, tra pozzi che raccoglievano l'acqua piovana e attraverso il gatto, le caditoie, e in caso di siccità, le acque del Brenta e i burci, Venezia risolve il problema dell'acqua. Però attenzione, io lo dico sempre ai miei allievi, guardate che il grande nemico di Venezia, della laguna, non è stato il turco, il più grande nemico, non è stato il genovese, è stata la sete. Il grande nemico di Venezia è la sete. Professore, ci fermiamo un momentino per un brano musicale, grazie. Ecco, il secondo brano musicale è Quando di Tony Renis. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, per improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciandomi dirai, non ci lasceremo mai. Mi dirai, non ci lasceremo mai. Eccoci di nuovo in studio, professore, a lei la parola. Io continuo, stiamo elencando i problemi che incontrarono fuggendo nelle lagune i nostri antenati terrorizzati dalle invasioni barbariche. Allora il primo problema è stata l'acqua, che hanno risolto brillantemente creando pozzi che sono capolavori. Si potrebbe girare Venezia solo per andare alla scoperta dei 1000 pozzi, che spesso sono veramente opere d'arte. C'era un secondo problema, i prodotti alimentari, perché le aree coltivabili in laguna sono relativamente poche. Usando la grande risorsa del sale, barattandola con le spezie, con altri prodotti, i nostri antenati, li chiamiamo i venetici, risolsero questo problema, soprattutto per ciò che riguarda il nostro discorso delle serenissime tavole, il problema del frumento, il problema delle graminacee, perché si sa che le graminacee richiedono, per essere coltivate, grandissime estensioni, e in laguna queste estensioni non ci sono. Per cui i nostri venetici barattavano il prezioso sale con il frumento e le altre graminacee. Da dove facevano arrivare il frumento? Beh, dalle zone di Padova, di Treviso, del Friuli, di Ferrara, poi e di Ravenna inizialmente. E poi sì, con il crescere della laguna, il nascere, il crescere di Venezia, ecco che il sale viene usato per acquistare frumento in luoghi più distanti, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia. In caso di carestia in queste terre, le navi veneziane arrivavano sino in Sicilia e poi anche al Levante. Pensate che commerciavano ad un certo punto in frumento con la Romania, con la Russia, arrivavano distanti, sono cose che a volte non mettiamo bene a fuoco, ma sti veneziani, i rivea veramente dappertutto per risolvere i loro problemi. E innanzitutto che cosa mangiare in laguna? Le isole le abbiamo nominato. Le isole potevano coltivare pochissimo frumento perché non hanno le superfici, però come Sant'Erasmo, ecco che diventano il luogo degli orti e delle vigne. C'era parecchio vino nelle isole, gli ortaggi. Sant'Erasmo è famosa soprattutto per le castraure, per i carciofi, ma erano un po' tutti i prodotti degli orti che trovavano la loro patria in queste isole della laguna e rifornivano i centri abitati. Pensiamo che Venezia arriva intorno alle 100.000 bocche, siamo al 1000 e poi arriverà alle 140.000 e alle 180.000. Pensate cosa significa in mezzo all'acqua sfamare ogni giorno 180.000 bocche. Pensate che organizzazione richiedeva. Queste bocche, bisogna sempre distinguere Siori e Poretti naturalmente, con lo Stato d'Amar, con la creazione dello Stato d'Amar, anche di questo abbiamo parlato qualche chiacchierata fa, è l'impero mercantile veneziano che nasce nel 1204 quando i veneziani conquistano Costantinopoli con la Quarta Crociata. Con la creazione dello Stato d'Amar trovavano parecchi prodotti in laguna, anche perché le navi veneziane, nelle famose mude, i mercanti veneziani per terre e per fiumi portavano prodotti alimentari in laguna praticamente da tutto il mondo conosciuto. Ricordiamoci che le navi veneziane con le mude, erano le migliori del mondo, uscivano anche dalle colonne d'Ercole, cioè dallo stretto di Gibilterra, affrontavano le onde dell'oceano e arrivavano ai grandi mercati delle Fiandre e anche ai mercati fino a Southampton, i mercati quindi inglesi. Tutte queste merci confluivano dove? Nel cuore mercantile di Venezia, e cioè a Rialto, che aveva inizialmente il ponte di legno, lo sapete, e che poi dal 1598-91 ebbero il famoso ponte di bellissimo di pietra, famoso in tutto il mondo, che ancora oggi è là. A proposito, lo hanno appena restaurato, lo sapete, sì, esatto. Appena pulito, in attesa che passi il figlio della mamma che lo insozzi con incisioni o con bombolette spray. Sapete che è stata scoperta qualche tempo fa la cifra dell'oggi che stava insozzando una brava madre di famiglia che non aveva niente di meglio da fare che insozzare i suoi cuoricini, mi pare, il ponte di Rialto. Riprendo il ragionamento dicendo che tutte queste merci che i veneziani, ormai diventati una grande potenza, si procuravano da tutto il bacino del Mediterraneo, dall'Oriente, abbiamo visto arrivavano in Russia per il frumento, tutto converge nei grandi mercati di Rialto, che sono i mercati dell'Europa. ancora oggi ne possiamo intuire la grandezza, la possiamo solo intuire, perché fino a qualche decennio fa erano i luoghi anche dei mercati ad ingrosso, poi sono stati portati parte al tronchetto, parte in terraferma e adesso sono soltanto mercati al minuto. Però tutti gli edifici di rialto, le fabbriche vecchie, le fabbriche nuove, ci dicono della grandezza di questi mercati, che erano tutti a portici, lì ci sono portici ovunque a Rialto, perché gli affari dovevano essere fatti, andavano fatti sia col sole sia con la pioggia, e i portici consentivano che le attività continuassero con qualsiasi tempo atmosferico. L'erbaria, per esempio, che guarda verso il Canal Grande, è del XIII secolo. L'erbaria. 1200, l'erbaria è bellissimo, adesso ci sono i bar, i tavolini, però era qui che le barche arrivavano di mattina presto all'alba da Sant'Erasmo con i contadini che vogavano a portare zucchine, radicchi, castraure, tarletti, bruscando i pisacan e la salicornia. I pisacan sapete che cosa sono? Non ricordo. Sì, lo sapevo. Il dente di leone. Ah, ecco. Il dente di leone. Sì, che buon profumo di verdura. Ecco, vi faccio venire fame. Ecco, e poi le donne del popolo potevano fare con queste erbe arricchire le famose fortagge, no? Che erano l'apporto di proteine animali anche per i poveri, perché le uova costavano, la carne era proibitiva, ma le uova costavano relativamente poco. Ecco, aggiungo questo, guardate che le uova, le leggi veneziane sul commercio erano molto severe, le uova erano vendute o dai fruttaroli, ma potevano tenerne solo 300 in negozio, non di più, oppure senza limitazione di numero dai gallinieri, e le donne del popolo compravano appunto queste uova per le fortagge e zucchine, radici, castraure, carletti, bruscando gli episacani e salicornia dai contadini di Sant'Erasmo. Facevano anche i risotti naturalmente con queste erbe. Vi dico una cosa sull'erbaria che è molto interessante, sì. Che era diventata di moda tra i nobili, che dopo le notti passate a divertirsi facevano un'ultima tappa, lo schiarirsi del cielo, proprio qua in erbaria, per mangiare il frutto fresco che arrivava da Sant'Erasmo, e quindi il perseghetto, e quindi la saresa, e quindi la prugnetta seconda della stagione. C'era un gran affollamento di gondole, di nobili, di dame e di cavalieri, ed era l'ultima occasione per fare lo struscio prima di andare a dormire. Quindi si mangiava dal contadino il perseghetto fresco e si tentava l'ultimo colpo di mano per coronare degnamente la nottata. Se poi andava male, io dico sempre scherzando, si mangiavano, il nobiluomo si mangiava il perseghetto e diceva, come la Rossella O'Hara famosa, domani è un altro giorno. E andava finalmente a dormire, quando gli altri già lavoravano da un pezzo. Notiamolo, i vitelloni bene. Dell'epoca. Sì. L'erbaria. Poi c'è la narranzeria a Rialto, che è bellissima, ospitata nel palazzo dei Camerlenghi, che è l'unico palazzo veneziano con marmi su tutte le facciate. Anche questo è stato appena pulito, tra l'altro ha una bellissima incisa sui marmi, una bellissima preghiera alla Madonna, e è tutto pulito, sempre in attesa che passi il figlio della mamma, sempre incinta, chiaramente. La narranzeria è interessantissima perché ha tutti i magazzini, sono molto piccoli, e la gente passa via e crede magari che siano delle carceri. Non è così. Le prigioni erano sull'altro lato del palazzo e conservano ancora le grate. Invece la narranzeria, queste piccole stanze, erano proprio i magazzini delle naranze. una curiosità. Ci fermiamo un momento prima per un brano musicale. Sì. Allora, il prossimo brano è Perdere l'amore di Massimo Ranieri. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di passare la parola al nostro ospite, abbiamo il siparietto tradizionale Storia de che altri. Questa volta è una poesia di Pablo Neruda che sembra, con un po' di malizia, dedicata dai mariti alle mogli. Dopo naturalmente lasceremo il giudizio ai nostri ascoltatori e soprattutto alle nostre ascoltatrici. Me gustas quando callas, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre. ¿Alegre de qué? No sea cierto. Mi piaci silenziosa, perché sei come assente. Mi senti da lontano, ma la mia voce non ti tocca. Par quasi che i tuoi occhi siano volati via, ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca. Tutte le cose sono colme della mia anima, e tu da lontano emergi colma d'anima mia. Farfalla di sogno, assomigli alla mia anima ed assomigli alla parola malinconia. Mi piaci silenziosa quando sembri distante e sembri lamentarti, tubante farfalla, e mi senti da lontano e la mia voce non ti arriva. Lascia che il suo silenzio sia il mio silenzio stesso. Lascia che il tuo silenzio sia anche il mio parlarti, lucido come fiamma, semplice come anello. Tu sei come la notte, taciturna e stellata. Di stella il tuo silenzio, così lontano e semplice. Mi piaci silenziosa perché sei come assente, distante e dolorosa come se fossi morta. Basta allora un sorriso, una parola basta, e sono lieto, lieto che questo non sia vero. E passiamo quindi alle serenissime tavole con il nostro ospite. Beh, bellissima poesia. Molto bella. Io non ho più il coraggio di parlare a questo punto. No, riprendiamo sui mercati di rialto. Certo, che sono stati la naranzeria. I mercati d'Europa, i più grandi, e eravamo sulla naranzeria dove c'erano le botteghette di questo frutto così delizioso, no? E dei naranzieri. Ecco, volevo aggiungere l'etimologia, no? Perché il nostro dialetto naranza rispecchia bene l'origine della parola, che è l'arabo narang, mentre in italiano la N si è persa, che viene dal sanscrito. E c'è una curiosità, sapete che cosa significa narang? Frutto che piace agli elefanti. Oh. E io immagino che l'elefante, sì, con la sua proboscide bella lunga, fregasse velocemente agli umani, fosse abile a fregare agli umani il frutto, e l'umano restava a bocca asciutta. Narang, frutto che piace agli elefanti. Ma poi a Rialto c'era la pescheria, si vendeva di tutto, c'era la panetaria dal 1341, c'erano nei dintorni di Rialto, pensate, 25 botteghe di pistor, cioè di panettiere, di fornaio. E poi ancora oggi le calli dei mercati ci spiegano che i mercati rialtini si erano specializzati, per cui ogni zona aveva una particolare categoria di prodotti e di commercianti, per cui questo consentiva anche la concorrenza ed era a vantaggio dei consumatori. Prendo la rughetta del Ravano, e dove si vendeva il raffano, il creme, la calle dell'Ogio, la calle del Scaleter. Sapete cosa significa Scaleter in veneziano? No. Pensate che Scaleter è normale dire boh, il produttore di scale. Ma cosa c'entra con i mercati di Rialto? No, Scaleter in veneziano antico, questa è una cosa che non tutti i veneziani di oggi conoscono, perché anche lì il dialetto è sparito in pratica. Lo Scaleter è il pasticcere. Ah, mamma mia, che differenza. Perché sul dolce principe, che era la focaccia nuziale per gli sposi, il pasticcere tracciava, prima di infornare l'impasto, una scala molto sintetizzata. Immaginate i due bastoni verticali e i pioli orizzontali, come la mamma mia che quando faceva, quando ero bambino, il pane, tracciava la croce prima di infornare. Esatto. Ecco, Questa scala aveva un significato augurale, era come dire agli sposi: sentite, salite in macchina, in camera, e fate il vostro dovere, equivalente di auguri e figli maschi. Per cui, siccome il ciambellaio tracciava sempre questa scala per gli sposi, ecco che hanno cominciato a chiamarlo Scaleter. Quindi se per Venezia ce n'è più d'uno, sì. Si calle del Scaleter, attenzione, non cercate la scaletta per i lavori domestici, non troverete lì in antico, qualche volta ancora oggi, troverete un negozio di pasticcere. Scaleter è pasticcere. Ecco una curiosità. Poi c'erano i beccheri importantissimi, e c'erano le pubbliche beccherie in Rialto, e però i mercati rialtini potevano, e la città potevano anche incontrare momenti di difficoltà, momenti di carestia, momenti di problemi gravissimi negli approvvigionamenti per questa città, che era una delle più grandi d'Europa, ricordiamoci. Venezia per secoli è stata una delle città più popolose d'Europa e bisognava sfamarlo. E quindi nasce in città ben presto l'idea di fare scorte, di tenere scorte nei momenti di basso costo, nei momenti di abbondanza, scorte per i momenti, insomma fare come la formica, no? Che, sì, mette, sì, via, che mette via per l'autunno, per l'inverno. Sì. Avari. È certo. Questo, per esempio, dopo la guerra di Chioggia, la terribile guerra contro Genova, 1379-81, dove era venuto meno il rifornimento del sale, perché i genovesi, avendo preso Chioggia, avevano preso le saline e il controllo delle saline di Chioggia. Ed ecco allora che nascono i famosi magazzini del sale, dietro la Basilica della Salute, ma sono del 1400, tardo 1300, e poi via via rifatti alla punta della dogana, che adesso vengono usati per la Biennale, per esposizioni, c'è l'esposizione permanente del pittore Vedova, eccetera. Del XIII secolo il fontego del Megio, e cioè il magazzino del miglio, avevano anche grano, ma soprattutto miglio. E tornando alla guerra di Chioggia, 1379-81, Venezia patì la fame, perché le navi genovesi erano là, e anche era assediata anche da terra, dagli alleati della nemica Genova. Beh, pensate che Venezia si è salvata dalla fame, dalla morte per fame, 1379, facendo e mangiando continuamente polenta de Megio, la polentina di miglio che avevano in magazzino. Non so se se fosse buona. Polenta di miglio, e si sono salvati dalla fame. Poi sapete che la guerra finisce, che Venezia riesce a dare una spallata a Genova, li caccia via, e questi genovesi li porta alla sconfitta, e quindi riprendono i rifornimenti alimentari. E però le polentine di miglio sono state noiose tutti i mezzogiorni e tutte le sere, immagino, ma hanno salvato la città. Garantivano la sopravvivenza. Sì. Un altro anno terribile, e torno un po' indietro rispetto alla guerra di Chioggia, è stato il 1321, che potremmo proprio definire l'anno della fame. Allora, nel 1322, i veneziani hanno costruito i famosi graneri pubblici di Terranova, che potevano contenere 30.000 quintali di granaglie. Non esistono più, erano sulla riva del bacino di San Marco, dove adesso ci sono i giardinetti reali, dove le scolaresche vanno a fare picnic. La necessità di, faccio una notazione di economia, di avere scorte abbondanti in città, il governo veneziano era molto previdente, derivava dal fatto di tenere basso il prezzo del pane, perché l'aumento del prezzo del pane scatenava l'inflazione, quindi il governo veneziano calmierava, avendo le scorte, il prezzo del pane e impedire che si che nascesse il mercato nero, la borsa, speculazione, la borsa nera. Sì, i granai sono stati, poi avevano i granai a San Biagio, i forni delle famose gaete, le gaete, che il pane secco, i biscotti secchi, caricati a bordo delle navi veneziane, duravano mesi e mesi perché erano perfetti, migliori, le gaete migliori del mondo sicuramente, non facevano muffa né nulla, perché i veneziani usavano materie prime di primissima qualità. Le gaete cominciano a decadere, a fare un po' di muffa, non sono più le stesse, nel tardo 600, quando Venezia non ha più i mezzi, ed è in decadenza ormai per certi aspetti, per rifornirsi delle materie prime di superiore qualità. Pensate che seguendo la storia di Agaeta si potrebbe anche seguire proprio la storia dello sviluppo della potenza veneziana e del suo tramontare, perché l'Agaeta è una cartina di tornasole molto importante. Vicino a San Marco c'era poi il Fonteghetto della Farina, che è stato rinnovato nel 1492, è ancora là, lo si vede ancora. Nel Fonteghetto della Farina si vendeva la farina, è facile da immaginare, ecco. Però sì? Era proibito vendere la farina all'esterno del Fonteghetto. Perfetto. E dove macinava Venezia il frumento? Eh sì, perché ci vuole acqua corrente per le ruote di un mulino. Beh, non ci crederete, ma a Venezia in antico c'erano anche dei mulini. Ci fermiamo un momento, professore. Ecco, ci fermiamo un attimo per un altro brano musicale che è Solo Noi di Toto Cutugno. Bene con te, e mi diceva tu sei tutto per me, se non è amore dimmelo tu cos'è, si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore dimmelo tu cos'è, e poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi. Il respiro di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tu eri con me, solo noi, solo noi. Le montagne se vuoi, solo noi, solo noi. Prati verdi se vuoi, solo noi, solo noi. Dimmi che non sai stare da solo un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu cos'è, ti penso ancora, ma tu non sei con me, solo noi, solo noi, dimmi che amore è, solo noi, solo noi, la mia mente è dov'è, solo noi, solo noi, odio queste lenzuola. Le montagne non vuoi, studio nuovamente per l'ultima tranche di questa interessantissima esposizione, partendo dai mulini che ci hanno molto incuriosito. Allora, sì, riprendiamo proprio dai mulini, che erano pochissimi in Venezia e poi spariscono. I mulini erano sul Sile, dove c'era il consorzio delle 80 ruote in Trevisana, gestito dai provveditori alle Biave, macinavano fino a 336.000 sacchi all'anno. Oh. Vado avanti veloce e diciamo allora cos'era la cucina veneziana. Era il risultato di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Aveva una base semplice: la carne, il pesce, gli ortaggi della laguna. A questo si era aggiunto qualcosa di più complesso, no? Tutte le spezie, i prodotti come le arance, le melagrane che si trovavano nei mercati di Rialto, i crauti, le influenze dei foresti che vivevano a Venezia, gli armeni, gli ebrei, i tedeschi, e tanti piatti che noi crediamo veneziani genuini, tipo, faccio un esempio, risi e bisi che venivano offerti a Doge. Sono trevigiani. Cosa c'è di più veneziano, secondo la Vulgata? Eppure pensate che in realtà è un piatto bizantino. Bizantino? Sì. E lo si offriva il Doge con questa primizia il giorno di San Marco, il 25 di aprile. Il Doge mangiava risi e bisi. Io pensavo fosse trevigiano. E noi pensiamo veneziano puro sangue, invece no. È un piatto orientale, un piatto bizantino. La cucina veneziana è una cucina in crescita, con i viaggi, le esplorazioni e i commerci. Cito un nome che probabilmente tutti conoscono, Pietro Querini, che nel 1431, nel settembre, fa naufragio nel Mare del Nord, approda nell'isola di Sando e poi di Rost nel 1432, e lì vede tutti questi pesci piccati a testa in giù, anche senza testa, a seccarsi. È il baccalà, il famoso baccalà. Quando allora ritorna verso la laguna, se ne fa consegnare 60 e scrive una famosa lettera al Senato Veneto, che adesso è conservata negli archivi romani, dove spiega cosa sono questi pesci. E dalla prima ricetta li battono col roverso della manara. Vi ricordate che i nostri vecchi battevano il baccalà a lungo con il legno d'oro? Sì, ma esatto. Io ho un'amica che lo batte ancora. Bravissima allora, perché ci vuole pazienza. Li battono col roverso della manara, poi butiro, non serve che traduca, butiro, per ammorbidire, per dargli sapore. Ed è la prima ricetta di questo piatto, che diventerà una delle caratteristiche della cucina veneta, no? Mia mamma lo faceva col pomodoro, ma poi alla vicentina veneziana, mantecato, eccetera. Allora, pensate che a 500 anni dal naufragio, lì nell'isola dell'estremo nord, si è innalzato nel 1932, quindi, tempi del fascismo qui in Italia, un monumento al nostro Pietro Querini, perché si è creato un ponte di commercio continuo tra la Norvegia e Venezia, che mangiava quantità notevolissime di questo pesce, ed è stata la ricchezza per quelle isole, perché hanno cominciato ad esplorare. Poi c'era il sale arabo. Il sale arabo è lo zucchero di canna, che all'inizio era costosissimo, e i veneziani lo coltivavano nell'isola di Cipro, veniva usato in medicina, ed era un segno di grande ricchezza. Il grande sviluppo della cucina, ma sarà molto lento, si ha dopo la scoperta dell'America, e questa è dovuta a Cristoforo Colombo. È una data, credo, che ricordiamo tutti dalle scuole elementari. Guai se non la si sapeva a memoria questa data, la maestra ci bacchettava. 12 ottobre 1492, con la scoperta dell'America, le Indie occidentali, sì, perché Colombo era convinto di essere arrivato in India, nell'Oriente. Era un po' mona Colombo, perché forse è morto sempre convinto di essere arrivato. Non aveva capito che era un nuovo continente, forse un po' mona, come succede a tanti, magari anche al sottoscritto. Allora, tante novità che arrivano in cucina e fa fanno una rivoluzione anche a Venezia, ma è lenta, perché questi prodotti nuovi suscitano parecchia diffidenza. Ma saranno commestibili? Non saranno commestibili? Sono tossici? Non sono tossici? E tanti ingredienti che noi consideriamo tipici della nostra cucina in realtà sono americani, a cominciare dalla vaniglia, dalle zucche, i fagioli, i famosi fagioli sono americani, il girasole, il cacao naturalmente sappiamo, già Colombo lo aveva portato in Europa, poi sarà arricchito da cucchiaini di zucchero quando lo zucchero nel 700 diventerà più alla portata di mano, meno costoso, più democratico diciamo, ecco. E dopo la famosa patata, le patate, sono degli Incas, ma pensate che si affermano su larga scala in Europa e a Venezia solo nel 1800, perché non piacevano, non si trovava il modo di cucinarle, per renderle, racconto questa, del Re Sole, perché siccome si era vista che dava un'alta resa alla patata e poteva veramente scongiurare la fame per tanti, il Re Sole ha provato a farle coltivare, perché i francesi non ne volevano sapere, a far solverliare i campi di patate da soldati dicendo che c'era il cibo prezioso del re. E allora, c'è il cibo prezioso del re, e allora entravano per spirito di emulazione a fare le ponte terre, e le patate hanno cominciato un po' alla volta ad imporsi, ma ci hanno messo secoli ad imporsi le qui patate. dobbiamo forzatamente completare diciamo la nostra trasmissione, purtroppo i tempi sono molto stretti come al solito. Certo. E possiamo solo ringraziare il nostro ospite e a Dio piacendo ad una prossima volta. Veramente ecco. Ha fatto un excursus. Bellissimo. Posso dire soltanto che anche dall'America arriva la polenta, chiaramente, tipica. Polenta e bacalà. Buono. Allora... e ritorniamo alle nostre latitudini. Grazie di nuovo l'intervento, professore, e buona serata. E la saluto, chissà che alla prossima. E a Dio piacendo. Alla prossima volta. Anche da parte mia. Arrivederci. Anche da parte mia estendo a tutti un caro saluto, perché io adesso vado in vacanza, quindi un saluto affettuoso a tutti e ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.